Sulla spiaggia un bel negretto mi ha fermato e poi mi ha detto: scusa, vu comprà, chiedo 1000, mi dai la metà. Io vado in giro col mercato sulle spalle e su una spiaggia vengo a rompere le balle. Vu comprà, se non compri non ti raccampa. Povero negro io e tu capitalista, di quel che ho in valigia ti farò la lista. Prima lista: vendo le mutandine di Serena Grandi, i recipetti dell'Indira Gandhi. Vendo Sinatra, la Madonna e la Carrà. Vendo Fellini 4 e mezzo, vu comprà. Vendo le foto di Benito sul cavallo, vendo per 1000 un corno di corallo. Vendo il tappeto super jet di Alibaba, vendo l'arena di Verona, vu comprà. Vu comprà, chiedo 1000, mi dai la metà. Io vado in giro col mercato sulle spalle e sulla spiaggia vengo a rompere le balle. Vu comprà, se non compri non ti raccampa. Povero negro io, tu capitalista, di quel che ho in valigia ti farò la lista. Vendo il serpentone della cicciolina, vendo cassette false e brillantina, vendo Adriano Celentano e tutto il clan, Elisabetta d'Inghilterra e Mitterrand. Vu comprà, chiedo 1000, mi dai la metà. Io vado in giro col mercato sulle spalle e sulla spiaggia vengo a rompere le balle. Vu comprà, se non compri non ti raccappa. Tu vero negro io, tu capitalista, di quel che ho in valigia ti farò la lista. Maradona, Dio napoletano e Mario Merola col cuore in mano. Vendo Luciano, Pavarotti e chi lo sa, Vanna Marchi con le alghe. Vu comprà, chiedo 1000, mi dai la metà. Io vado in giro col mercato sulle spalle e sulla spiaggia vengo a rompere le balle. Vu comprà, se non compri non tiro a campa. Povero negro io, tu capitalista, di quel che ho in valigia ti farò la lista. Vu comprà, chiedo 1000, mi dai la metà. Io vado in giro col mercato sulle spalle e sulla spiaggia vengo a rompere le balle. Vu comprà, se non compri non ti raccampa. Io negro io, tu capitalista, di quel che ho in valigia ti farò la lista.